che il gruppo si sciolse e poi gran parte di coloro che ne avevano fatto parte fu catturato e ucciso. Il 26 agosto anche Macno venne arrestato. Nell'aprile 1910 la corte marziale li condanna all'impiccagione per aver partecipato ad associazioni anarchiche e ad atti terroristici. In seguito la pena gli fu commutata ai lavori forzati a vita perché risultava ancora minorenne. I suoi genitori, infatti, avevano posticipato la sua data di nascita nel certificato di un anno per evitargli il servizio militare. Il 2 agosto del 1911 fu trasferito nel carcere di Butyrki a Mosca, dove si ammalò di tubercolosi. In carcere Macno studiò grammatica russa, matematica, letteratura, storia ed economia. Alla fine di febbraio del 1917 scoppia la rivoluzione russa. Lo zar Nicola II rinuncia al trono e si costituisce il governo provvisorio con a capo Alexander Kerensky. Macno fu liberato insieme agli altri prigionieri politici durante l'insurrezione il 2 marzo 1917. Uscito di prigione, Macno tornò a Guglielpole, dove riunì le sue vecchie conoscenze. Macno e i suoi compagni si riconoscevano nelle idee di Kropotkin. Il 29 marzo 1917 fu eletto a capo del comitato locale dell'Unione dei contadini di Guglielpole. Ascoltiamoci allora l'inno dell'Armata rivoluzionaria insurrezionale dell'Ucraina. Magnavcina, Magnavcina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les mots et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levait. À travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Magnavchina les avait jetés au Magnavchina, Magnavchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Blanche de Dénikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Magnavchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Magnavchina l'a dispersée dans le vent. Magnavchina, Magnavchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Magnavchina, Magnavchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Maklovchina, Maklovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Il 7 marzo 1917 la Rada Centrale, il primo Parlamento nazionale ucraino, si insiera a Kiev. A giugno i contadini della zona di Guglia e Pole cominciano a espropriare i grandi proprietari terrieri, avviando una redistribuzione delle terre, creando comuni e cooperative agricole. Inoltre, smisero di pagare l'affitto ai proprietari terrieri. I soviet dei contadini decisero di porre la terra sotto la propria giurisdizione, mettendo propri uomini a guardia degli animali e degli attrezzi fino a primavera affinché i pomescichi non potessero venderli. Ad agosto Makhno convocò i proprietari fondiari e i possidenti della regione facendosi consegnare i documenti comprovanti l'estensione della loro terra e redasse un inventario preciso di tutti i loro beni. Il congresso della regione dispose di lasciare ai kulaki e ai pomescichi la superficie di terra che un contadino poteva coltivare con le sue sole forze corrispondenti ad un'estensione dai 5 ai 10 ettari. Lo stesso criterio fu adottato per il numero degli animali e la quantità degli altri beni. Sull'esempio della regione di Guglia e Pole, tali disposizioni furono emesse da molte assemblee distrettuali contadine delle province di Ekaterinoslav, Poltava, Charkov e nella Taurite. Dal suo ritorno a Guglia e Pole, ad ottobre Makhno ricoprì le cariche di presidente dell'Unione Contadina della Regione, presidente del Comitato della Terra, presidente del Sindacato Metallurgici e Falegnami e presidente del Consiglio dei Contadini e degli Operai di Guglia e Pole. Nell'agosto del 1917 ci fu in Russia un tentativo di colpo di Stato contro il governo provvisorio da parte del comandante in capo dell'esercito russo, generale Kornilov. Il 25 settembre a Guglia e Pole si forma il Comitato per la difesa della rivoluzione e si riunisce il primo congresso regionale dei soviet che proclamò ufficialmente la confisca delle terre e la loro devoluzione alla proprietà collettiva. Il Comitato di difesa della rivoluzione decise di procedere nella regione al disarmo di tutta la borghesia e all'abolizione dei suoi diritti sulla ricchezza del popolo, cioè terre, fabbriche, officine, tipografie, teatri, circhi, cinema ed altre imprese pubbliche. Quindi i makhnovisti si armarono con le armi confiscate. Makhno in quell'occasione disse: «Dividetevi in gruppi da 10 a 15, contando 5 uomini per carro, e senza perdere un minuto partite per visitare le proprietà dei comescichi e dei kulaki e dei ricchi contadini tedeschi della regione di Guglia e Pole e togliete a questi borghesi tutte le armi, carabine, fucili a palla o a piombo e spade». Il 7 ottobre iniziò la protesta nella fonderia Bogatyr a Guglia e Pole. La direzione della fonderia aveva già deciso di aumentare del 50% le retribuzioni per tutte le categorie di lavoratori. Ma gli operai avevano insistito per aumenti scalari inversamente proporzionali alle diverse categorie, fra il 35 e il 70%, così da livellare le differenze salariali. L'obiettivo fu raggiunto e il sindacato makhnovista che aveva guidato la lotta acquistò grande autorevolezza in tutto il territorio. Il 7 novembre, il 25 ottobre secondo il calendario giuliano, in vigore in Russia fino al 14 febbraio 1918, una coalizione di bolscevichi, socialisti, rivoluzionari di sinistra e anarchici organizzò l'insurrezione armata a Pietrogrado a Mosca, rovesciando il governo provvisorio ed il potere venne trasferito al Soviet dei commissari del popolo, composto da bolscevichi e socialisti rivoluzionari. Il governo russo dichiara la fine della guerra e il passaggio delle fabbriche agli operai e della terra ai contadini. In un articolo scritto da Volin in un giornale anarchico alla vigilia della rivoluzione d'ottobre si affermava: gli anarchici erano disposti a sostenere il rovesciamento del governo provvisorio se per il potere dei soviet si intende che tutte le attività sociali e lavorative saranno nelle mani delle organizzazioni operaie e contadine sostenute dalle masse in armi, se il potere dei soviet non sarà nei fatti il potere di un nuovo partito politico. Ascoltiamoci ora una canzone dedicata a Nestor Makhno dagli Apoamater Indies Folk. Nestor Makhno. Nella steppa sconfinata a 40 sotto zero contavamo 7 stelle bianche nel petto di Makhno. Sciabole e pallottole corrodono la carne, siano esse bolscevichi o dell'Ozar. La caviglia mi divorano le tarme mentre sto cercando di salvare la città. Roschi dietro le colline, Denikin sale dal confine per finire sotto il cielo di Parigi, senza terra, senza amici, e morire da bohemien, e morire da bohemien, e morire da bohemien. I Makhnovisti, quindi, armi alla mano, si allearono con i bolscevichi e i socialisti rivoluzionari, invitando i propri membri a partecipare al movimento di massa contro il governo provvisorio. Tra il novembre 17 e il febbraio 1918, i nuovi soviet locali assunsero il potere nelle principali città russe e ucraine. Nel dicembre 1917 a Charkov viene istituito il governo sovietico dell'Ucraina. Il 20 dicembre 1917 si costituisce in Russia la Commissione straordinaria di lotta alla controrivoluzione, la CECA, la polizia politica bolscevica. Makhno riunì i contadini delle zone circostanti nel secondo congresso dei soviet, il quale adottò una risoluzione dal titolo «Morte alla Rada centrale». Su quella parte di Ucraina, però, dal fronte stavano rientrando le truppe cosacche. Se avessero attraversato il Don, l'ataman, il capo dei cosacchi, Alexei Kaledin, avrebbe potuto mettere in campo una forza sufficiente a lanciare un'offensiva contro i makhnovisti. Makhno allora convocò il terzo congresso dei soviet, che si affrettò a costituire una formazione armata per lottare contro i cosacchi. Il 3 gennaio 1918 Bogdanov, il comandante del distaccamento dell'Armata Rossa, indirizzò un appello ai contadini e agli operai di Guliaipole per chieder loro aiuto. La stessa notte i makhnovisti risposero positivamente. Nella battaglia dell'8 gennaio 1918 i makhnovisti, alleati con bolscevichi e socialisti rivoluzionari, fermarono e disarmarono i cosacchi, che a metà febbraio furono definitivamente sconfitti. Il 3 marzo 1918 il governo bolscevico russo firmò il trattato di pace di Brest-Litovsk con le potenze centrali guidate dalla Germania e accettò di rinunciare a vari territori, fra i quali l'Ucraina, che in primavera venne occupata dalle truppe austro-tedesche che riconoscono come governo legittimo la Rada centrale. Arrivarono quindi in Ucraina le truppe austro-tedesche, circa 200.000 uomini, che si comportarono come padroni assoluti e cercarono di portare via dall'Ucraina tutti i prodotti alimentari. Se i contadini si opponevano, cercando di non cedere i loro beni, li fucilavano o li picchiavano. Dopo il loro arrivo, il leader nazionalista Semenyuk cominciò ad attaccare apertamente gli anarchici. In risposta, il gruppo anarco-comunista proclamò il cosiddetto terrore rivoluzionario e uccise Semenyuk. Guglielmo Pole fu sull'orlo della guerra civile. Magno fece di tutto per ottenere la revoca del terrore rivoluzionario e sottoscrivere un accordo con l'opposizione, riuscendo ad ottenerlo. Al momento dell'occupazione austro-tedesca dell'Ucraina, Magno, dietro incarico del Comitato Rivoluzionario di Guglielmo Pole, creò l'Assemblea Generale Popolare Ucraina per la discussione degli affari pubblici. In quel periodo la borghesia locale lo ricercava e quindi dovette nascondersi. Per rappresaglia, le autorità militari ucraine e tedesche bruciarono la casa di sua madre e fucilarono suo fratello maggiore Emilian. Le truppe austro-tedesche, travolgendo le formazioni armate dei socialisti rivoluzionari, dei bolscevichi e degli anarchici, raggiunsero il Dnepr. La batteria ebraica si assunse il compito di proteggere Guglielmo Pole, ma nella notte fra il 15 e il 16 aprile ne prese il controllo a nome dei nazionalisti ucraini, arrestando parte degli anarco-comunisti. Magno si espresse contro un'eventuale ritorsione, convincendo contadini operai che i lavoratori ebrei, anche quelli arruolati in quella batteria, ora condannavano questo atto vile. Il 16 aprile una manifestazione a Guglielmo Pole liberò gli anarchici arrestati, ma ormai non era più possibile organizzare una difesa militare vincente. Gli austro-tedeschi invasero Guglielmo Pole, dove attuarono insieme ai nazionalisti una dura repressione colpendo tutti gli anarchici che non erano riusciti a fuggire. Il 29 aprile 1918 un colpo di Stato rovescia la Repubblica Popolare d'Ucraina e Pavlo Skoropadskij è proclamato Hetman, cioè capo politico dell'Ucraina a Kiev. Durante i mesi di giugno, luglio e agosto del 1918, nei villaggi si verificarono atti di rivolta contro i possidenti e contro le autorità austro-tedesche. Ne seguì una forte repressione. Gli austro-tedeschi e gli uomini dell'Hetman fucilarono in massa i contadini dei villaggi insorti e bruciarono le loro case. Nel giugno 1918 Magno andò a Mosca per incontrare alcuni vecchi militanti anarchici e raccogliere consigli su quale dovesse essere la direzione e il lavoro politico fra i contadini dell'Ucraina. Gli anarchici in quella fase della rivoluzione russa apparivano estremamente indecisi e deboli. Magno quindi non poté trovare ciò che cercava. Durante il suo viaggio a Mosca, i bolscevichi gli proposero di prendersi una determinata zona dell'Ucraina per il lavoro rivoluzionario clandestino e di condurre tale lavoro a nome loro, ma Magno rifiutò. A Mosca Magno incontrò anche Lenin, con cui ebbe un colloquio. Ascoltiamo il resoconto del colloquio con Lenin, come riportato nel documentario di Ellen Chatelain dal titolo Nestor Magno, la rivoluzione ucraina. Lenin mi accolse paternamente e mi fece sedere. Cominciò ad interrogarmi col suo tono da organizzatore nel modo più preciso. La domanda su come i contadini accoglievano la parola d'ordine tutto il potere ai soviet me la fece tre volte. Risposi che per i contadini ciò voleva dire che il potere doveva allinearsi alla coscienza e alla volontà stessa dei contadini. Lenin mi rispose allora: il fatto è che i vostri contadini sono contaminati dall'anarchia, è un male, gli risposi. Lenin mi chiese poi dei distaccamenti rossi, della loro lotta eroica contro l'occupante, della mancanza di sostegno dei contadini. Temo, compagno Lenin, che siate male informato, risposi. I vostri gruppi restano lontano dalle strade, non combattono nelle campagne. Come potete pensare che i villaggi li sostengano? Non li vedono mai. Lenin si mise a ridere. Voi anarchici scrivete e pensate al futuro. Siete capaci di pensare al presente. Risposi che ero un contadino illetterato, che mi era difficile discutere su una questione così importante. Ma posso dirvi, compagno Lenin, che in Ucraina, nella Russia del Sud, come dite voi bolscevichi, noi siamo immersi nel presente ed è attraverso di esso che noi cerchiamo di avvicinarci al futuro, al quale è vero noi pensiamo, e noi pensiamo molto seriamente. Luglio del 1918 Makhno tornò a Guliaipole. Il 6 luglio 1918 i socialisti rivoluzionari di sinistra compiono un attentato contro l'ambasciatore tedesco a Mosca per far saltare il trattato di pace di Brest-Litovsk, cui fa seguito un'insurrezione armata contro i bolscevichi che viene sconfitta. I contadini del sud-est dell'Ucraina iniziarono ad agire con i metodi della guerriglia partigiana. Sorsero diverse brigate partigiane che cominciarono a operare incursioni contro i proprietari, le loro guardie e i rappresentanti delle autorità. Solitamente queste brigate partigiane, che consistevano di 20, 50, 100 uomini a cavallo ben armati, operavano assalti rapidi e inaspettati alle case dei possidenti e contro la Guardia Nazionale e poi scomparivano. Le azioni partigiane erano condotte esclusivamente da contadini senza la guida di nessuna organizzazione politica. Inizialmente queste brigate agivano ognuna per proprio conto. Nella regione di Guliaipole fu realizzata l'unificazione delle brigate partigiane del sud dell'Ucraina su iniziativa di Nestor Makhno. Nel tempo di 2 o 3 settimane queste brigate divennero il terrore delle autorità austro-tedesche e dei grandi proprietari terrieri. Il campo delle azioni militari abbracciava tutto il sud dell'Ucraina. Furono creati interi battaglioni per sconfiggere e catturare Makhno, ma non ci riuscirono. I makhnovisti uccidevano gli ufficiali austriaci, tedeschi e ungheresi, ma lasciavano andare i soldati caduti prigionieri, proponendo loro di tornare in patria e raccontare come agivano i contadini ucraini e a lavorare per la rivoluzione sociale. Punivano con la morte soltanto i soldati colpevoli di violenza contro i contadini. La prima vera battaglia avvenne il 30 settembre nel villaggio di Tibrivki. Makhno e alcune decine di partigiani occuparono il villaggio. Con un piccolo gruppo Makhno riuscì ad arrivare nel centro del villaggio dove gli austriaci avevano le mitragliatrici. Al suo segnale i partigiani cominciarono a sparare a bruciapelo sui nemici, mentre un altro gruppo armato attaccava nella periferia del villaggio. Non riuscendo a capire cosa stesse succedendo, le forze nemiche si diedero alla fuga e Makhno conseguì la sua prima vittoria militare. Allora che a Makhno venne attribuito l'appellativo di Batko, cioè piccolo padre. Poco dopo però tornarono in forze gli austriaci che riconquistarono il villaggio. I grandi proprietari crearono allora una speciale brigata appositamente per la lotta contro Makhno. Questa brigata, insieme agli austro-tedeschi, riuscì a circondare gli uomini di Makhno, che in quel momento si trovava con un gruppo di 30 partigiani con una sola mitragliatrice. Fu quindi costretta a ritirarsi verso il villaggio di Mikhailovka. Dalle parole, i contadini avevano saputo che nel villaggio erano accampati un battaglione di austriaci e la brigata organizzata dei grandi possidenti. Il gruppo di makhnovisti fece comunque un improvviso assalto che produsse il panico nel nemico, che iniziò a fuggire. Una parte della brigata dei possidenti riparò verso il fiume Volcia, dove furono attaccati e uccisi dai contadini del luogo, arrivati in aiuto. 2 giorni dopo Mikhailovka fu circondata da grandi forze austro-tedesche e dai reparti dei proprietari terrieri, chiamati da tutta la regione. Intorno al 5 ottobre i tedeschi cominciarono a battere il villaggio con intenso fuoco d'artiglieria, poi entrarono i reparti di fanteria e le brigate di kulaki, che fecero esecuzioni di massa ed appiccarono il fuoco alle case. Ed ora ascoltiamoci una vecchia canzone anarchica. Fratelli, pugniamo da forti. Tu, fratelli, pugniamo da forti contro i vili tiranni borghesi. Ma come fece Caserio e compagni, che la morte l'an diede a incontrare. Non vogliamo più servi e padroni, l'eguaglianza sociale vogliamo, ma quelle terre che noi lavoriamo, a noi tutti le spese ci fa. La mia testa schiacciatela pure, disse Caserio agli inquisi suoi, ma l'anarchia è più forte dei tuoi. Presto, presto schiacciarvi dovrà. I contadini comunque continuarono ad approvvigionare i partigiani, li rifornivano di cavalli e di foraggi. Portavano loro da mangiare nei boschi quando era necessario. Raccoglievano e riferivano ogni notizia sui movimenti del nemico. A volte si univano alle brigate combattendo a fianco dei partigiani per 2 o 3 giorni, quindi tornavano ai campi. Poi Macno riuscì ad occupare Gugliaipole. Gli austriaci mandarono rinforzi. Durante il giorno Macno fu quindi costretto a lasciare il villaggio, ma verso sera uscirono in suo aiuto qualche centinaio di contadini della zona con i quali fu possibile opporsi a tutte le forze austriache. Così continuarono le azioni per 3 o 4 giorni, finché Gugliaipole non fu presa definitivamente dai contadini insorti. Nel novembre 1918 in Germania la rivoluzione rovesciò il Kaiser Guglielmo II. Le truppe austro-tedesche e lo Hetman fuggirono. Il 13 novembre la Russia annullò il trattato di pace di Brest-Litovsk. Macno decise di creare nella regione un fronte unico insurrezionale sotto il comando di un quartier generale nel quale entrarono anche i bolscevichi, i socialisti rivoluzionari di sinistra. Nel dicembre 1918 a Kiev si insediò Petliura con un suo direttorio. La sua autorità si impossessò della maggior parte dell'Ucraina. Soltanto nel sud, nella regione tenuta dal movimento macnovista, non ebbero successo e furono più volte sconfitti. Il movimento petliurista, espressione della borghesia nazionalista ucraina, fin dai primi giorni della rivoluzione voleva la separazione della nazione ucraina dalla Russia. Per questo crearono la Rada, il Parlamento della Repubblica Ucraina. Già nel giugno 1917 proclamarono l'indipendenza. Lo svilupparsi e rafforzarsi del movimento petliurista fu un problema per i bolscevichi e per questo le loro truppe marciarono su Kiev. Dall'11 al 25 gennaio 1918 Kiev fu teatro di una lotta accanita fra petliuristi e bolscevichi. Il governo di Petliura e gli agenti politici del movimento si ritirarono nella parte occidentale del paese. Le forze bolscevichi rimasero in Ucraina solo 2 o 3 mesi e nel marzo-aprile 1918 si ritirarono in Russia, abbandonando l'Ucraina alle truppe di occupazione austro-tedesche. Di ciò approfittarono i petliuristi. Il loro governo, rappresentato dalla Rada centrale, tornò a Kiev. Ma le autorità austro-tedesche occupanti l'Ucraina preferivano avere a che fare con gli antichi padroni del paese, generali e possidenti, anziché con i petliuristi e quindi, come abbiamo visto, imposero il governo dello Hetman Shoropaski. Dopo che gli austro-tedeschi se ne furono andati nel novembre 1918, dal nord avanzarono i bolscevichi. intenzionati ad occupare tutta l'Ucraina. I bolscevichi avevano costituito un governo ucraino a Kursk, in Russia, che si trasferì a Charkov, nell'Ucraina centrale, già liberata e occupata dalla brigata rivoluzionaria dell'anarchico Cheredniakov. Le truppe bolscevichi entrarono quindi nella regione del centro dell'Ucraina. Cheredniakov fu dichiarato fuori legge dalle autorità bolscevichi ed unì la sua brigata all'esercito di Makhno. Quindi in Ucraina cominciarono ad agire tre forze militari, i petliuristi, i bolscevichi e i makhnovisti. Nell'Ucraina meridionale Makhno e gli insorti instaurarono un sistema anarchico senza governo, autoamministrato dai contadini, mentre la parte nord-occidentale dell'Ucraina cadde sotto l'influenza di Petliura. Nella zona controllata da Petliura i contadini venivano arruolati con la forza e spesso disertavano per unirsi a Makhno. Il Consiglio Militare Rivoluzionario dell'esercito makhnovista pubblicò un manifesto intitolato «Chi è questo Petliura?», accusandolo di essere un difensore delle classi possidenti e quindi meritevole di morte per mano dei lavoratori. Nel dicembre 1918 il congresso regionale di Ekaterinoslav, a maggioranza makhnovista, dichiara la propria opposizione al nuovo direttorio di Petliura. Le forze di Makhno e i bolscevichi insieme sconfiggono l'esercito di Petliura, occupano Ekaterinoslav per un breve periodo e poi si ritirano. Lo scontro decisivo tra bolscevichi e petliuristi ebbe luogo nella regione di Kiev, che dal momento dell'entrata del direttorio era diventata il centro delle attività politiche dei petliuristi e il luogo di concentramento delle loro truppe. Agli inizi di febbraio i bolscevichi presero Kiev. Tra il novembre 1918 e il giugno 1919 nella zona di Guglia e Pole crebbero e si rafforzarono le comuni agricole. Chiunque lo desiderasse poteva costituire nella propria zona una comune agricola e chi invece voleva lavorare singolarmente poteva farlo su appezzamenti di terra di dimensione sufficiente. Già nel 1918 sorse la prima libera comune a cui fu dato il nome di Rosa Luxemburg, in cui all'inizio vi entrarono soltanto alcune decine di uomini, in seguito il loro numero ascese a più di 300 ed aveva un'estensione di circa 136 ettari. A 7 km circa da Guglia e Pole, in una tenuta che era stata di un grande proprietario, c'era un'altra comune che si chiamava semplicemente Comune numero 1, dei contadini di Guglia e Pole. A circa 20 km da questa si trovavano le comuni numero 2 e numero 3. Anche in molte altre località furono create delle comuni. Nelle comuni tutti, uomini, donne, giovani, dovevano lavorare in misura della loro forza. L'organizzazione era affidata a uno o due compagni, i quali, assolto tale compito, tornavano al lavoro, a fianco di tutti gli altri, membri della comune. Pur avendo messo in comune la proprietà, i membri avevano abitazioni separate, potevano lavorare sia individualmente sia collettivamente, e se desideravano cucinare solo per sé, erano liberi di farlo. Lo stesso Makhno lavorava due giorni a settimana in una di queste comuni. Nel gennaio 1919 viene stipulato un primo accordo militare tra makhnovisti e bolscevichi. Dall'inizio del 1919 il movimento makhnovista ebbe un territorio definito, con un'infrastruttura sociale e politica, indipendente e ramificata, al centro della quale c'era una struttura militare. Makhno, agendo in un territorio relativamente stabile, decise di ripristinare il sistema dei Soviet e furono adottati alcuni provvedimenti tesi a trasformare il movimento nato da una rivolta contadina in un'organizzazione capace di esercitare il potere in un territorio definito. Fu creato il Comitato Militare Rivoluzionario che cominciò a prendere decisioni che valevano sia per la formazione armate che per gli stessi contadini. La composizione iniziale del comitato prevedeva 10 rappresentanti dei soldati e 3 dei contadini. Quanto alle tendenze politiche presenti, vi erano 7 anarchici, 3 socialisti rivoluzionari, 2 bolscevichi e un indipendente. Il bolscevico Antonov Ovsesenko, che visitò l'area nel 1919, riferì che Guliai Pole era uno dei migliori centri culturali della nuova Russia e disse: «Grazie agli sforzi di Makhno sono stati aperti 10 nuovi ospedali militari per la cura dei feriti e sono stati organizzati corsi per riparare e rendere più sicure le proprie armi». Il 23 gennaio 1919 si svolse la prima assemblea dei contadini e degli operai della zona controllata da Makhno, nella quale si discusse del pericolo dei movimenti delle truppe di Petliura, che era fuggito all'estremo nord occidentale dell'Ucraina, e di Denikin, il capo delle armate bianche. La seconda assemblea dei contadini e degli operai e degli insorti decise di proclamare nella regione una mobilitazione volontaria e fu creato un consiglio militare rivoluzionario regionale dei contadini, degli operai e degli insorti, che in qualsiasi momento poteva essere sciolto da quella stessa assemblea. Nella terza assemblea furono considerate la situazione dell'intera Ucraina e furono stabiliti i compiti economici e politici che dovevano essere assolti. Nel marzo 1919 il comando bolscevico propose a Makhno di entrare con le sue brigate nell'Armata Rossa per sconfiggere insieme Denikin. I makhnovisti accettarono sulla base di un accordo basato su questi punti. 1. L'ordinamento interno delle brigate all'interno dell'Armata Rossa sarebbe restato quello di prima. 2. I commissari politici nominati dall'autorità comunista erano accettati. 3. Sarebbero dipese dall'alto comando bolscevico soltanto in campo operativo. 4. Non avrebbero potuto essere allontanate dal fronte contro Denikin. 5. Avrebbero ricevuto equipaggiamento militare e vettovagliamento come gli altri reparti dell'Armata Rossa. 6. Avrebbero continuato a chiamarsi Esercito Insurrezionale Rivoluzionario e conservato la bandiera nera. Era frequente però che i contadini cacciassero con la forza delle armi le commissioni straordinarie per la lotta contro la controrivoluzione, il sabotaggio e la speculazione, cioè la CECA. In altre località questi istituti furono causa di scontri sanguinosi tra la popolazione e l'autorità. La stampa bolscevica iniziò allora a trattare le parole d'ordine makhnoviste come controrivoluzionarie e nocive alla rivoluzione. Tutti quelli che entravano o uscivano da Guliai Pole erano fermati. Il rifornimento di munizioni all'esercito insurrezionale fu ridotto ad appena un quinto. Concludiamo qui la prima parte di questa trasmissione dedicata alla Makhno Vichina. Alla prossima!